Brutto giorno di Simone Spezia. Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, il film dedicato alla crisi dei migranti a Lampedusa, il candidato italiano agli Oscar. Intanto su questo fronte Hollande in visita a Calais, la Gran Bretagna faccia la sua parte e dice: in Italia si stanno esaurendo i fondi per l'accoglienza. Siria, la Russia sotto processo alle Nazioni Unite, reagisce, toni inaccettabili, nuovi raid sulla città di Aleppo, i civili restano senza cibi e medicine. Chiederò a Renzi sgravi fiscali, dice il presidente della Lombardia Maroni, dopo il referendum svizzero che vuole limitare le assunzioni di stranieri. Calcio, Spalletti è stato un piccolo uomo, dice Ilari Blasi, moglie di Totti, intanto Juventus e Napoli hanno già staccato le altre. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere, anche per segnalare delle storie che pensate ci possano interessare. Oggi affronteremo proprio una di queste tramite una mail che ci è arrivata da un ascoltatore sul tema dei disabili nelle scuole, della carenza di insegnanti di sostegno. Oggi, come sapete, versione un po' più corta, è la versione del lunedì. In apertura dunque parliamo di cinema, ma in realtà parliamo di immigrazione, perché è stato scelto quello che sarà il candidato italiano agli Oscar. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno Simone. Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, il film italiano che sarà candidato all'Oscar per il miglior film in lingua non inglese. Fuoco a mare ha battuto la concorrenza degli altri film che si erano candidati, e cioè Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno, Indivisibili di Edoardo De Angelis, Lo chiamavano Gigrobò di Gabriele Mainetti, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, Pericle il nero di Stefano Mordini e Suburra di Stefano Sollima. A decidere questa mattina una commissione istituita dall'ANICA di esperti e addetti ai lavori, tra i quali l'ultimo vincitore per l'Italia, cioè Paolo Sorrentino. Per la fine del 2016 dovrebbe essere resa nota la shortlist mondiale, da cui verranno scelte poi le nomination che saranno annunciate martedì 24 gennaio 2017, mentre la cerimonia di consegna sarà domenica 26 febbraio 2017. Oh, so Marta che fare previsione è difficile, vedi qualche speranza? Allora, io non solo vedo qualche speranza, potrebbe anche accadere che Fuoco a mare... che a Fuoco a mare arrivi anche una nomination come miglior documentario, perché questi sono i film che ogni paese porta su a sponte come film in lingua non inglese, ma come accade per La vita è bella, l'Academy può candidare anche dei film stranieri, quindi Fuoco a mare potrebbe avere anche una nomination in teoria come miglior documentario. Vedremo cosa succederà. Intanto in bocca al lupo evidentemente a Gianfranco Rosi e a tutti quelli di Fuoco a mare. Marta, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che chi non l'avesse visto potrà recuperarlo in televisione, perché andrà in onda il 3 ottobre in prima serata su Rai 3, quindi insomma è un'occasione per vederlo. E grazie, grazie a Marta Cagnola per questo aggiornamento. Dunque, di immigrazione si parla in Fuoco a mare, veniamo proprio al fronte dell'immigrazione che continua a scuotere l'Europa. Non ha messo piede nella bidonville e non ha spiegato dove andranno a finire i 10.000 disperati che vivono ora fra tende e cartoni ai margini della cittadina francese di Calais. Ma il capo di Stato francese François Hollande ha promesso a residenti e commercianti locali esasperati che la situazione cambierà. Nous devons démanteler complètement, définitivement. Dobbiamo smantellare completamente, definitivamente il campo, ha detto Hollande per la prima volta in città. Arrivato in elicottero, ha incontrato le autorità locali, le forze di sicurezza, i rappresentanti politici dell'imprenditoria e delle associazioni. Ha chiesto che i britannici facciano la propria parte, che paghino, insomma, anche per lo smantellamento del campo, come già stanno facendo per la costruzione del muro di Calais. La recinzione costerà 3,2 milioni di euro. Per ora offre la Gran Bretagna. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E molti giornali, a proposito del fronte italiano, raccontano oggi di lettere inviate dalle organizzazioni non governative nelle quali si segnala che sono finiti i soldi per i migranti e servono 600 milioni di euro e i centri sono al collasso e migliaia rischiano quello che viene definito, tra virgolette, lo sfratto, ossia di uscire da questi centri di accoglienza perché non c'è più denaro. Non c'è nessun allarme, dice il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, ente che gestisce la Croce Rossa 50 centri. Lo ha intervistato proprio Valentina Furlanetto. Noi facciamo un'attività di accoglienza in tutti i moli d'Italia. Quella è un'attività per cui la Croce Rossa non riceve assolutamente alcun corrispettivo dello Stato. Dove stiamo vivendo un momento di difficoltà è in alcuni centri di accoglienza, dove c'è un forte ritardo delle prefetture nel pagare i corrispettivi per sostenere quel tipo di servizio. Ma esiste il rischio di sfratto per gli stranieri in questi centri? No. I ritardi nel trasferimento di questi soldi da parte del governo sono fisiologici o sono eccezionali quest'anno? Guardi, sono abbastanza fisiologici, quest'anno c'è un po' più di difficoltà. Noi non abbiamo avanzato nessuna protesta formale nei confronti del Ministero. In alcune realtà dove si fatica di più è stato rappresentato alle prefetture questa preoccupazione, perché i comitati territoriali della Croce Rossa, che affrontano su richiesta della prefettura la gestione di questi centri, sono in alcune realtà molto in affanno. Così dunque Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, ente che gestisce 50 centri. Siamo ad un quadro di mercati, perché la giornata è decisamente difficile, partita molto male, adesso sta correggendo lievemente, c'è grande attesa per Draghi. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, oltre che per Draghi, anche per tutti gli altri appuntamenti della settimana, e sono molti, a cominciare dal vertice dell'OPEC di Algeri previsto per il 28 settembre. Si auspica un accordo fra i maggiori paesi produttori per stabilizzare le quotazioni del prezzo del petrolio, e poi c'è di nuovo una bufera sui titoli del settore bancario a causa della crisi di Deutsche Bank in Germania, che comincia a preoccupare sempre di più. Ecco il quadro di seduta: Parigi -1,66, Francoforte -1,52, Londra -1,16, Madrid -1,24, Milano -1,55%, il petrolio a Londra è a $46.50, a New York è a 45. Dicevamo, i titoli del settore bancario tutti sotto pressione, con l'unica eccezione a Piazza Affari, proprio di Monte dei Paschi, che adesso guadagna 3 punti, ma stamattina con una fiammata è arrivata a guadagnare oltre 6 punti percentuali, sulla scia delle indiscrezioni di mercato che danno per certo l'arrivo di almeno 4 fondi sovrani nelle capitali, o quantomeno pronti a far parte dell'aumento di capitale, appunto, che verrà effettuato nei prossimi mesi. Quindi questo è un po' il quadro di seduta. Simone, direi che per ora è tutto. C'è anche il downgrade sulla Turchia, che stamattina pure ha alimentato le vendite sui listini internazionali. E ti ringrazio, grazie a Deborah Rosciani, poi torneremo più avanti come sempre sui mercati con i colleghi di Radio Cuore Il Sole 24 Ore alle 13.30 per un ulteriore punto anche più approfondito. Andiamo all'estero con la Siria in primo piano e lo scontro tra la Russia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia. Sergio Nava, buongiorno. Sì, buongiorno. Cattive notizie purtroppo dal fronte siriano, con l'annuncio del portavoce del Cremlino in merito alla cancellazione del summit sulla Siria a causa, dice Dmitry Peskov, del tono inaccettabile fatto registrare da parte di alcuni funzionari britannici e americani. Peskov ha definito la situazione come molto difficile. Poco fa, parziale correzione di rotta da parte del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov. È ancora troppo presto per abbandonare l'intesa tra Russia e Stati Uniti, ha detto Lavrov. E solo poche ore fa il ministro degli esteri siriano Walid al-Mualem ha affermato che il cessate il fuoco sponsorizzato da Russia e Stati Uniti non è morto, nonostante le decine di raid aerei governativi e russi proseguiti anche nelle ultime ore, con un bilancio sempre più grave di vittime civili, soprattutto ad Aleppo, colpita pure questa mattina. Si stimano ad Aleppo una decina di vittime solo oggi, una cinquantina se consideriamo invece le ultime 48 ore. Il tutto mentre gli aiuti internazionali hanno raggiunto ieri 4 città assediate per la prima volta in 6 mesi, come annunciato dalla Croce Rossa. 71 tir hanno portato generi di conforto sia alle due roccaforti ribelli Madai e Zabadani, sia a Foa e Kefraia, controllate invece dal governo siriano. 60.000 le persone che hanno potuto beneficiare finalmente di cibo, medicinali e kit igienici. Per il momento è tutto. E grazie Sergio Nava per questo aggiornamento sulla Siria. Noi ritorniamo all'Italia e veniamo alle vicende politiche, a partire dal Movimento 5 Stelle. All'indomani della festa di Palermo, la giunta romana è ancora alla ricerca dell'assessore al bilancio. Rinsaldata la compattezza, pur con qualche riluttanza, il day after la kermesse di Palermo il Movimento 5 Stelle riparte con un Beppe Grillo tornato al centro della scena. Il messaggio per Virginia Raggi, ben accolta sul palco siciliano, è vai avanti ma basta errori. Onori e oneri, sostiene Di Battista, la sindaca è autonoma nelle scelte ma deve assumersene le responsabilità. E tra gli oneri c'è ancora quello di completare la sua squadra monca. All'appello manca l'assessore al bilancio da 25 giorni, una casella di grande importanza per un comune con un debito da 13 miliardi di euro. euro. La nomina di Tutino, magistrato contabile esperto in evasione fiscale, potrebbe arrivare in settimana, ma c'è qualche reticenza nell'ambiente 5 Stelle, poiché Tutino era stato indicato dai vertici come uno degli esponenti della casta protetta dal PD. E proprio su questo tema caldo, per oggi è in programma in comune un vertice risolutorio. Non solo, da decidere ci sono anche le altre caselle mancanti: capo di gabinetto, partecipate e responsabile dell'anticorruzione. Altro nodo da definire è infine quello delle Olimpiadi. Bisogna infatti ancora votare in Assemblea Capitolina una mozione che trasformerà in atto formale il no pronunciato dalla Raggi, che ha detto invierà una lettera al Comitato Olimpico per spiegare le ragioni. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questa è la giornata nella quale dovrebbe essere scelta la data del referendum. Si conoscerà nel pomeriggio la scelta del governo sulla data del referendum costituzionale. Alle 17.30 si riunirà il Consiglio dei Ministri per decidere se si andrà alle urne il 27 novembre o il 4 dicembre. Due le opzioni sul tavolo, anche se la prima domenica di dicembre sembra la più quotata. La scelta della data del referendum scatena la protesta delle opposizioni, con Forza Italia e Sinistra Italiana che lamentano di non essere stati consultati. Per il capogruppo forzista Renato Brunetta, il Presidente del Consiglio deciderà la data senza essersi minimamente consultato con le opposizioni, come pure aveva promesso di fare. Il ministro Graziano Del Rio ribadisce che l'appuntamento non è un referendum sul governo. Ancor più della manovra, secondo il ministro dello sviluppo economico Calenda, il referendum è un appuntamento cruciale perché l'Italia ha bisogno di una governance forte. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E l'altro fronte ovviamente è quello economico, della definizione della legge di stabilità e del DEF, il documento di economia e finanza. Sentiamo. Ultime ore per fare conti, per limare cifre e numeri che saranno la base della prossima legge di stabilità. Slitta infatti a domani l'approvazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, la base della prossima legge di bilancio. Con le previsioni al ribasso, una crescita meno veloce di quanto ipotizzato, i margini del governo sono però più ristretti e la partita si gioca soprattutto sulla flessibilità e quindi sul negoziato con la Commissione europea. Il problema riguarda soprattutto la definizione del livello del debito e del deficit del 2017. Bruxelles non vorrebbe concedere più del 2,2%, il governo vorrebbe portarlo fino al 2,4% per scongiurare l'aumento dell'IVA e in ogni caso vorrebbe tenere fuori dal patto di stabilità le spese per l'emergenza migranti e per la ricostruzione post terremoto. Ma domani sarà una giornata importante anche sul fronte pensioni, fissato infatti l'incontro di sintesi tra governo e sindacati in cui dovranno essere definiti gli interventi previdenziali, tra cui l'anticipo pensionistico da inserire nella manovra di bilancio di metà ottobre. Finora si è parlato di 2 miliardi di euro, ma i sindacati chiedono almeno mezzo miliardo in più. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Si apre oggi il CERSAI, il Salone della Ceramica per l'Architettura e l'Arredo Bagno a Bologna, al quale Radio 24 sarà presente. Se vorrete effetto giorno ci sarà nella giornata di giovedì, come sempre, solito orario, dalle 13 alle 14 ci trovate là. Oggi c'era il ministro alle attività produttive, Carlo Calenda, lo ha sentito Adriano Palazzolo. Oggi i temi per questa industria qui, questo settore industriale, sono sostanzialmente questo: la competizione scorretta da parte di altri paesi, il costo dell'energia e gli investimenti che vanno fatti. Peraltro è un settore che ha investito molto l'ultimo anno, ha avuto una crescita degli investimenti di più del 20%. Dunque sono qui anche per presentare il piano Industria 4.0 che andrà in finanziaria e che rappresenta un ulteriore forte incentivo agli investimenti, che sono il tema cruciale oggi per tutto il paese. Siamo al calcio. A dominare la scena all'indomani della giornata di ieri, curiosamente, non è tanto quello che succede sul campo, e sì, lo dico ad Ulisse che ci ha scritto via SMS, abbiamo detto che Juve e Napoli staccano le altre, è ancora presto, lo sappiamo che è ancora presto, ma diciamo era un titolo, ma un'intervista di Ilari Blasi. Giovanni Capuano, ciao. Sì, ciao. Beh, nemmeno il tempo di mandare in archivio una giornata che ha mandato in fuga, anche se è ancora presto, Juventus e Napoli, e il tema di discussione ce l'ha regalato questa intervista di Ilari Blasi, che per chi non lo sapesse è la moglie di Francesco Totti, intervista uscita questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, un colloquio in cui la moglie di Francesco Totti definisce Spalletti piccolo uomo che subisce il marito. Il riferimento è alla dura polemica del finale della scorsa stagione, quando Totti è stato a un passo dal mancato rinnovo di contratto che quasi certamente avrebbe portato anche al ritiro dall'attività calcistica. Poi le cose, come sappiamo, sono andate diversamente. Totti ha avuto un altro anno di contratto, l'ultimo secondo Pallotta, ma Totti non sembra d'accordo e Ilari Blasi l'ha ribadito anche in questa intervista. La Roma attraversa un periodo di difficoltà, ieri ha perso a Torino, la seconda sconfitta in una settimana, è fuori dalla Champions League. Insomma, queste parole riempono e riaprono uno scontro durissimo. Tra l'altro Ilari sostiene di aver parlato all'insaputa del marito, che dovrebbe aver scoperto questa mattina dell'intervista leggendo la Gazzetta dello Sport. I maligni dicono che non è possibile. Domani Totti compie 40 anni e il paradosso è che sabato in conferenza stampa Spalletti aveva rivelato di essere stato invitato alla festa di compleanno di Francesco Totti e aveva anche annunciato che si sarebbe presentato per un saluto, poi se ne sarebbe andato per non rovinare la festa ai ragazzi. Ecco, quindi al di là di capire come sarà la stagione della Roma, oggi in tanti si interrogano sulla festa di compleanno di domani di Francesco Totti. Ci sarà o no, Luciano Spalletti? Il paese si divide, così come il paese si divide tra Ilari e Totti. Grazie a Giovanni Capuano, che ritroviamo alle 14 in tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia, e lo inizieremo con una storia che ci arriva dalla provincia di Brescia, che ci è stata segnalata a effetto giorno @radio24.it l'altro giorno, quando abbiamo parlato del problema degli studenti disabili che non hanno un insegnante di sostegno, non riescono ad avere continuità con l'insegnante di sostegno. E poi ci occuperemo anche del referendum per bloccare i frontalieri italiani in Svizzera, e infine una piccola storia. Vi ricorderete, ne avevamo parlato prima dell'estate, il sindaco che ha fatto un'ordinanza per chiedere agli studenti di non fare i compiti d'estate. Perché? Perché devono imparare a vivere. Come sapete, su questo si è anche aperto un grande dibattito sulla base di una lettera di un genitore al Corriere della Sera. Ebbene, risentiremo il sindaco e ci faremo raccontare com'è andata tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del candidato italiano agli Oscar, Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato di Siria con la Russia che reagisce dopo questa sorta di processo nelle Nazioni Unite da parte degli altri paesi, e adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e andiamo nella provincia di Brescia, anzi a Brescia nella fattispecie, per parlare di un problema che però riguarda 224.000 studenti in tutta Italia. Sono gli studenti con disabilità che spesso non hanno un insegnante di sostegno o non ce l'hanno ancora in questo anno scolastico che è iniziato in maniera decisamente confusa. L'altro giorno un ascoltatore, Luigi Della Bora, che è in linea con noi, buongiorno Della Bora e benvenuto. Buongiorno. Che è tra l'altro cofondatore e segretario di Cosmi Donlus, un'associazione sportiva per minori diversamente abili, ci ha segnalato una storia che appunto arriva da Brescia, ed è la storia di Davide. E chi è Davide? Un ragazzino con la sindrome di Down, che ha anche altri problemi perché ha subito un'operazione, ha avuto per un anno un insegnante di sostegno, dopodiché questo insegnante di sostegno non era di ruolo, ha passato l'anno successivo, mi sembra di aver capito, Della Bora, in una confusione completa con continui cambi, abbandoni e così via, no? Sì, esattamente, ha avuto praticamente sei o sette diversi insegnanti di sostegno di ruolo, le prime di ruolo, le ultime no, ma le prime di ruolo che accettavano l'incarico e poi si mettevano in malattia, oppure il caso più eclatante di una di queste insegnanti che ha dichiarato di non essere compatibile con il bambino e quindi rinunciava all'incarico, oppure una terza che chiede, accetta l'incarico, il giorno dopo chiede il congedo parentale fino alla fine dell'anno. C'è stato un giro incredibile, ma il problema vero era che a luglio la mamma di questo bambino aveva chiesto all'istituto di mantenere l'insegnante di sostegno che aveva avuto l'anno precedente, con la quale il bambino invece aveva avuto un bellissimo feeling e aveva avuto dei bellissimi miglioramenti. Peccato che questo c'era stata evidentemente una continuità. E in quest'anno, esatto, c'è stata anche una regressione del bambino. Il bambino è regredito tantissimo, ma si vedeva quotidianamente perché tornava da scuola nervoso, teso, anche perché spesso è rimasto proprio senza insegnanti di sostegno, e quando c'era continuavano a cambiare, per cui non si riusciva a creare una sintonia tra il bambino e l'insegnante per questa costante discontinuità. Evidentemente, che è una cosa, lo voglio dire, è un problema che riguarda, come dire, tutti i bambini, anche quelli che non hanno disabilità cognitiva, quando ci sono dei cambiamenti così veloci e così frequenti, figuriamoci una persona con una disabilità cognitiva. E alla fine è stato costretto a cambiare scuola, Davide. quest'anno Davide frequenta un'altra scuola, anche perché lì non si è riusciti assolutamente a salvaguardare questo assolutamente diritto del bambino alla continuità, nonostante un intervento con un legale e che un giudice monocratico nello stesso giorno ha stabilito che dovessero riprendersi quegli insegnanti di sostegno dell'anno prima. La scuola non l'ha fatto. Ma perché non l'ha fatto? Perché non l'ha fatto della Bora, secondo lei? Non so se a quest'ora si possono utilizzare certi termini. No. Non avevano piacere. Non avevano piacere a subire delle imposizioni. Questo è un po' stato un po' l'idea. Il problema è che hanno atteso la sentenza invece del consiglio dei giudici, che è venuto 3 settimane dopo. Nel frattempo il bambino non aveva nessuno, e questa sentenza gravissima è andata ad annullare la sentenza precedente, salvaguardando il diritto dell'insegnante di ruolo rispetto al diritto del bambino disabile. E qui si è creato un problema veramente. E questo era il senso della sentenza che è arrivata 3 settimane dopo, cioè è più importante il diritto dell'insegnante di ruolo ad essere di ruolo piuttosto che il diritto del bambino disabile ad avere una continuità. Sì, esattamente così. Il problema è che dopo le 5 o 6 insegnanti che sono cambiate, ne è arrivata una non di ruolo, non qualificata, che ha accettato ed è rimasta fino alla fine dell'anno, chiaramente creando un'altra situazione di disagio, perché col bambino... Cioè non qualificata come insegnante di sostegno, Non qualificata come insegnante di sostegno, e non di ruolo. E non di ruolo, e quindi alla fine la gestione di Davide è stata affidata a questa persona fino alla fine dell'anno. Dopodiché, appunto, avete cambiato, il bambino ha cambiato scuola, in sostanza. Era inderogabile, insomma, trovare una soluzione alternativa. Ma le dirò adesso una cosa che anch'io ho scoperto stamattina, che questa insegnante che aveva avuto il primo anno, questa Anna, che continua a non essere di ruolo, quest'anno l'hanno invece arruolata in questa scuola fin da subito per seguire un'altra bambina disabile. Ah, nella scuola che Davide ha lasciato? Esatto. Vabbè, e quando hanno sostenuto che era impossibile mantenerla perché non era di ruolo ed era lontana in graduatoria. Quest'anno l'hanno presa da subito. Cronaca è un paese incredibile. La ringrazio, grazie, Luigi Della Bora. Grazie Luigi Della Bora per essere stato con noi. Se avete da segnalarcele di storie, non solamente su questi temi, ma anche su altri, dal vostro territorio, effettogiorno@radio24.it, e nel nostro giro per l'Italia torniamo in Sardegna e torniamo a Mamoiada col sindaco Luciano Barone. Buongiorno sindaco, bentornato ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a voi. L'avevamo lasciata in sospeso, c'è cioè una storia che abbiamo deciso di recuperare perché l'avevamo promesso ai nostri ascoltatori. Allora, le dico che quando abbiamo raccontato la sua storia sono arrivati un po' di insulti via SMS e WhatsApp, perché lei aveva fatto un'ordinanza dicendo ai ragazzi, alle famiglie che mandano i ragazzi nelle scuole del suo comune, non fategli fare i compiti a casa quest'estate, i compiti d'estate, ma insomma fateli vivere, per così dire. Vorrei sapere da lei com'è andata alla fine, che cosa hanno fatto. Allora, come si può immaginare, c'è stato l'entusiasmo incondizionato da parte dei ragazzi. Vabbè, insomma, te credo. Esatto, è inutile stare lì a spiegare il perché. Poi invece, per quanto riguarda ovviamente gli adulti, sia genitori che corpo insegnante, ci sono state un po' più di resistenze, ma non necessariamente in toto, perché comunque hanno capito un po' lo spirito dell'iniziativa, perché non si tratta di ciò che non va fatto, ma di ciò che invece va fatto. Mi dica, quanti studenti ci sono nella scuola del suo paese e quanti hanno deciso di aderire alla sua ordinanza? Allora, diciamo che ci sono tra le elementari un 100-120 ragazzi e le medie un'altra sessantina, quindi siamo più o meno intorno ai 200 ragazzi complessivamente. Sì, sì. Perché comunque ho ripescato in questa mia iniziativa anche ragazzi che vanno già alle superiori, quindi nel nostro capoluogo di provincia, che è Nuoro esattamente. Che è Nuoro, Però e questo, diciamo che dai messaggi, dai riscontri che ho avuto, era trasversale, cioè in tutte le fasce d'età ho avuto dei riscontri molto molto positivi, al punto che io ho messo anche a disposizione degli spazi fisici proprio per fare attività specifiche come lo sport nella palestra, che è una struttura che chiaramente viene riservata solo esclusivamente alle associazioni sportive. Senta sindaco, però lei gli ha detto di non fare i compiti, sì. Quelli che non l'hanno fatti sono tornati e hanno preso 2 dalle professoresse, voglio, voglio immaginare. No, nel senso che io se fossi un insegnante farei esattamente questo. Se uno rientra e mi dice non ho fatto i compiti perché me l'ha detto il sindaco, due. Però guardi, anche qui c'è una contraddizione. Generalmente i compiti servono per far sedimentare esattamente dei concetti che durante tutto l'anno sono serviti per riuscire a migliorare la parte più didattica dell'apprendimento dei ragazzi. Io ho una classe invece dove sono stati bocciati in blocco 7 ragazzi. Sì. Quindi a questi ragazzi chi deve verificare i compiti? Questi che dovrebbero avere più bisogno di fare i compiti, di essere più attenti da parte del gruppo docente, sono lasciati completamente a se stessi. Quindi anche la contraddizione nel dare il compito esiste, sussiste, e non a caso c'è un dibattito abbastanza importante che mi sta sorprendendo, perché ancora oggi, ripeto, se ne parla a prescindere anche da questa quindi, vostra iniziativa. Mi scusi sindaco, ma lei non ha i numeri, io voglio capire i numeri, di questi 180 quanti non hanno fatto i compiti? Questo è arduo, perché comunque sia non è facile quantificarlo. Ora dovrei fare un giro nelle classi per capire esattamente chi li ha fatti e chi non li ha fatti, perché questo aspetto qua comunque sia del compito a casa è stato sempre travisato, perché io sono convinto che la maggior parte comunque dei ragazzi i compiti li abbiano fatto, però abbiano fatto anche qualcosa in più di quello che esattamente gli è sempre stato chiesto, cioè divertirsi. Allora la ringrazio, grazie a Luciano Barone, sindaco di Mamoiada, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata, ci ritroviamo tra un attimo nel nostro giro per l'Italia, andremo al confine con la Svizzera subito dopo per parlare con i rappresentanti dei frontalieri, quelli che fanno avanti e indietro tra l'Italia e il Ticino dopo questo referendum nel quale si è deciso di dare priorità agli svizzeri nel dare lavoro. Tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Hollande in visita a Calais, la Gran Bretagna faccia la sua parte sui migranti. Intanto in Italia si stanno esaurendo i fondi per l'accoglienza. E Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, il film dedicato proprio alla crisi dei migranti a Lampedusa, il candidato italiano agli Oscar. La Siria, la Russia sotto processo alle Nazioni Unite reagisce, toni inaccettabili, dice, nuovi raid sulla città di Aleppo, i civili restano senza cibi e medicine. Chiederò a Renzi sgravi fiscali, lo dice il presidente della regione Lombardia Maroni dopo il referendum svizzero che vuole limitare le assunzioni di stranieri. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto giorno. Abbiamo veramente pochissimo tempo prima di andare a sentire Mario Platero. Come sapete, la versione del lunedì è un po' più corta, giusto un attimo per parlare di questo referendum che c'è stato in Ticino, nel canton Ticino, voluto dall'UDC, un referendum consultivo nella quale il 58% dei ticinesi che sono andati a votare, che erano il 40%, hanno votato a favore della possibilità che si conceda una priorità, un canale prioritario ai lavoratori svizzeri nell'assunzione rispetto ai lavoratori frontalieri, in particolare evidentemente gli italiani. Eros Sebastiani è presidente dell'Associazione Frontalieri del Ticino. Buongiorno Sebastiani, e come l'avete presa? Buongiorno a lei e a tutti i radio spettatori. Ma l'abbiamo presa che ci aspettavamo già una risposta del genere, era nell'aria. Diciamo che la nostra preoccupazione maggiore è il referendum federale che è stato fatto nel febbraio 2014, che quello sì che diventa un problema, perché è sulla libera circolazione delle persone. E entro mese di febbraio del 2017, quindi entro pochi mesi, dovrà decidere Berna come gestire la situazione. Il tutto, questa è drammatica. Per voi rischia di rappresentare un problema. Brevemente, il tutto ovviamente su questo pende il fatto che in realtà Bruxelles è molto dura su questi temi, l'Europa, quindi la Svizzera rischia di trovarsi un nemico, diciamo così. Assolutamente, no? Sì. Io penso che il vero problema sia proprio cercare di fare un ponte tra le istituzioni svizzere e le istituzioni italiane, perché siamo molto vicini, parliamo la stessa lingua, a volte anche qua in Canton Ticino facciamo veramente molta fatica a comprenderci uno con l'altro. La ringrazio Eros Sebastiani, scusi per il poco tempo. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.